Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Coronavirus, i contagi in Italia salgono a 528, poco più di metà confermati dall'Istituto Superiore di Sanità, 14 le vittime positive con patologie pregresse. I ministri Di Maio e Speranza, l'Italia è affidabile, colpiremo chi specula su gel e mascherine, nel weekend la decisione sulla eventuale riapertura delle scuole. Borse europee in calo, in rialzo invece quelle cinesi. Trump, valuteremo lo stop ai voli con l'Italia, il ministro Gualtieri, Radio 24. Entro poche ore il decreto con le misure a sostegno delle aziende. Caso Regeni, l'ex ambasciatore italiano al Cairo in audizione. L'Egitto non informò subito della morte di Giulio, elusivi fin da subito. Sport, calcio, stasera gara di ritorno di Europa League, Ghent-Roma e in serata Inter-Ludogorets a porte chiuse. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Cominciamo con gli aggiornamenti per quanto riguarda il coronavirus, poco fa forniti dal capo della protezione civile, e però ricordiamo anche subito per dovere di una informazione equilibrata e corretta che si parla di una influenza per la quale nella maggioranza dei casi le persone infettate recuperano da casa senza particolari sintomi e solo in una percentuale molto ristretta di casi si creano complicazioni. Le vittime che erano positive, 14 fino a questo punto, soffrivano di altre patologie ed erano molto anziane. Non è possibile stabilire esattamente quale sia la causa del decesso. Ma fatta questa doverosa premessa, andiamo con Alessandro Arona che ha da poco ascoltato il punto del commissario per l'emergenza Borrelli. Ciao Alessandro. Sì, ciao Alessio. Sì, come dicevi tu, i dati da ora in poi, i dati che comunicano le regioni, dovremmo considerarli i risultati dei primi test dei tamponi, che poi devono essere validati dall'Istituto Superiore di Sanità. Questo lo stabilisce una circolare del Ministro della Sanità Speranza di 2 giorni fa ed sono le linee guida dell'OMS. Ma veniamo ai numeri, intanto poi spiegheremo. Sono 528 appunto i casi positivi al test in tutta Italia, 14 deceduti, e anche su questo sono in corso esami dell'Istituto Superiore proprio per capire se il coronavirus è stata la causa effettiva della morte o sono, diciamo, deceduti per malattie pregresse. Poi l'altro dato positivo è che 37 persone sono guarite in Lombardia, quindi i casi totali di guariti salgono a 40 con i 3 nel Lazio. I casi maggiori sono sempre in Lombardia, 305, Veneto 98, Emilia Romagna 97, Liguria 11, e poi da 1 a 3 casi in Lazio, Sicilia, Marche, Toscana, Campania, Piemonte, Bolzano e Abruzzo. Ma sentiamo Walter Ricciardi, che poco fa è sceso in sala stampa, è membro del board dell'OMS e da alcuni giorni consulente del governo, ha dato alcuni importanti chiarimenti. Sentiamolo. Dall'altro ieri abbiamo deciso che la definizione di caso deve essere fatta dall'Istituto Superiore di Sanità, perché quello che succede è che i laboratori regionali, e questo test, lo ricordo, è un test che è ancora, non voglio dire sperimentale perché adesso si sta perfezionando, ma ancora degli enormi margini di miglioramento, può dare, diciamo, dei falsi positivi e dei falsi negativi, per cui è importante che quelli che emergono dalle regioni siano ancora considerati casi sospetti, non confermati. Dunque i casi sospetti sarebbero 528, mentre Borrelli ha spiegato che i casi confermati dall'Istituto Superiore sono, sono 282. Cioè, ora parliamo dei casi che sono stati confermati, lo diciamo per estrema chiarezza ancora una volta, dall'Istituto Superiore di Sanità, a conferma del tampone iniziale che può avere una percentuale di errore, di sovrastima dei casi. Alessandro, ti chiedo di arrivare a conclusione perché poi abbiamo naturalmente tutte le altre notizie, ma poi se avrai altre notizie in corso ce le potrai dare. Qui sia al volo, che il punto è che secondo Ricciardi questi dati delle regioni sono sovrastimati, cioè facendo il controtest alcuni risulterebbero però non realmente positivi. Borrelli dice che finora al 100% sono stati confermati. Dovremmo chiarire questo aspetto, però è importante che si dia anche questo secondo dato, 282 casi confermati in Italia. Bene, grazie ad Alessandro Arona per queste informazioni che arrivano dalla conferenza stampa del commissario per l'emergenza Borrelli in mattinata, a parlare anche i ministri della Salute Speranza e degli Esteri Di Maio. Poi c'è attesa anche per una decisione delle regioni sulla eventuale riapertura delle scuole. Allora parliamo anche di questo con Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno Alessio, mi trovo qui alla sala stampa estera dove si è tenuto questa mattina un incontro tra il ministro Di Maio e il ministro Speranza con i corrispondenti stranieri. L'obiettivo è rassicurare l'opinione pubblica straniera comunicando la reale portata del fenomeno senza minimizzare, ha detto Di Maio, ma per lanciare un messaggio chiaro. L'Italia è un paese credibile, affidabile, turisti e imprenditori possono venire tranquillamente qui. Troppe le notizie errate che sono state diffuse, ha detto il ministro degli Esteri. La crisi in Italia è molto limitata, coinvolge lo 0,1% dei comuni, lo 0,05% del territorio nazionale, ma sentiamo la sua voce. Sono numeri che riguardano lo 0,089% dei comuni italiani. Veramente importante non partecipare a questa infodemia da disinformazione, come la chiamiamo noi, che farà più danni dello stesso rischio di epidemia. I casi di contagio al di fuori sono riconducibili solo ai due focolai, ha detto ancora Di Maio, mentre il ministro della Salute Speranza ha spiegato che si sta verificando la connessione tra i due focolai. Entrambi hanno assicurato tolleranza zero contro chi specula sulle mascherine. Mentre sui dati si è pronunciato il direttore scientifico dello Spallanzani, Ippolito, presente qui in conferenza stampa, stiamo lavorando affinché siano comunicati solo i casi clinici. Intanto il desiderio di tornare alla normalità arriva dai comuni del nord, in particolare dai sindaci del Lombardia. Tre giorni dalla fine delle ordinanze che, come sappiamo, hanno disposto le misure restrittive, ripartiamo dalla cultura e riapriamo i musei, ha detto Beppe Sala. Voglio essere ottimista sulla riapertura delle scuole, ha detto il governatore Fontana, ma si deciderà nel fine settimana. Anche il Piemonte, con un solo caso di positività, chiede un graduale ritorno alla normalità. Dalla Sicilia invece dura presa di posizione del governatore Musumeci, ci sarebbe meglio, ha detto, che da noi non venissero turisti dal nord. Da Roma per ore tutto. Grazie Alessandra Schepisi. Ancora qualche notizia: via libera dal Messico alla nave da crociera Meraviglia della MSC ad attraccare a Cozumel. Era stata respinta due porti dei Caraibi per paura del coronavirus. Israele invece impedirà l'ingresso dei cittadini italiani nel paese con l'obiettivo di prevenire il diffondersi del coronavirus, l'ha detto poco fa il ministro degli interni. A livello globale sono 82.585 i casi, di cui solo 46.000 i casi attivi. E questo è un dato importante perché i casi attivi sono da giorni in diminuzione. Ha atteso invece per domani il decreto del governo con le misure a sostegno dell'economia, lo ha confermato oggi a Radio 24 il ministro dell'economia Gualtieri. Il governo sta lavorando a due decreti per aiutare il sistema produttivo messo in crisi dal coronavirus. Due provvedimenti, dice il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, con misure per sostenere sia i territori e i settori più colpiti, sia per dare una spinta all'economia. Il primo decreto sarà varato in settimana. Fra le misure in arrivo per la zona rossa ci sono la sospensione dei contributi previdenziali, lo stop ai versamenti per la rottamazione delle cartelle, un rinvio degli adempimenti fiscali anche per i clienti dei professionisti che sono nella zona blindata e, puntualizza Gualtieri, ci sarà un aiuto alla liquidità delle piccole e medie imprese italiane. Al momento una stima degli effetti del coronavirus su economia e crescita non è ancora possibile, spiega Gualtieri a 24 Mattino. Se c'è una cosa su cui tutti sono d'accordo è che in questo momento è impossibile fare stime precise, perché per avere una stima bisognerebbe sapere qual è l'evoluzione del virus e se, come ne auspichiamo, le misure di contenimento saranno efficaci e per quanto tempo ci vorrà per debellarlo. Queste sono cose che nessuno sa. Gli effetti del coronavirus sull'economia del paese allarma il mondo produttivo. Secondo Confindustria serve un continuo confronto per arrivare a decisioni efficaci e condivise per il sostegno alle attività produttive. Sono necessarie misure di aiuto più ampie. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora tutte le altre notizie, cominciamo con gli sviluppi del caso Regeni, perché ci sono state oggi dichiarazioni importanti dell'ex ambasciatore italiano al Cairo, ha parlato in audizione. Il 3 febbraio del 2016, alle prime ore del mattino, alla periferia del Cairo venne ritrovato il corpo senza vita di Giulio Regeni, ma le autorità egiziane non informarono subito l'allora ambasciatore al Cairo, Maurizio Massari. A raccontarlo lo stesso diplomatico in audizione davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del ricercatore. Massari ha spiegato anche che, nonostante le sue pressioni, venne a sapere della morte di Regeni da una sua fonte non istituzionale dell'American University del Cairo e che sin dall'inizio notò il contrasto tra gli ottimi rapporti con l'Egitto e l'elusività delle autorità locali sul caso. Massari ha ricordato anche che quando vide la salma del giovane ricercatore italiano notò segni evidenti di percosse, abrasioni e torture su tutto il suo corpo, segni che hanno lasciato una traccia indelebile nella memoria del diplomatico. Dovrà invece rimanere in carcere per altri 15 giorni sotto custodia cautelare Patrick George Zaki, lo studente egiziano iscritto all'Università di Bologna arrestato 2 settimane fa al suo rientro al Cairo. Il ricercatore 27enne, lo ricordiamo, è stato arrestato e poi picchiato e torturato per capire i suoi legami con l'Italia e con la famiglia di Giulio Regeni. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Papa Francesco, indisposto, non andrà questa mattina alla Basilica Romana di San Giovanni in Laterano per la prevista liturgia penitenziale che fa parte dell'inizio della Quaresima col clero romano, in cui avrebbe anche confessato i sacerdoti. E ora una notizia invece che è un lutto nel mondo della letteratura per la scomparsa del grande scrittore Cussler. Quando si parla di romanzi d'avventura, uno dei nomi di riferimento è quello dell'americano Clive Cussler, un autore di successo planetario con oltre 126 milioni di copie vendute, solo in Italia 8 milioni, di cui 5 per la serie dedicata a Dirk Pitt, protagonista di romanzi di successo come Enigma, Recuperate il Titanic e Sara. Dopo una carriera da pubblicitario negli anni 60, aveva iniziato a scrivere inventando appunto il personaggio di Dirk Pitt. Molte delle avventure raccontate lo scrittore le aveva vissute in prima persona, prima come ingegnere di volo della aeronautica militare americana, poi attraverso la NUMA, l'associazione che aveva fondato nell'87 specializzata nel recupero e nella conservazione di relitti marini di interesse storico. Anche l'ultimo romanzo pubblicato in Italia a gennaio, Il destino del faraone, fa parte di questa saga ed è uno di quelli che Cussler aveva scritto con il figlio Dirk, chiamato così proprio in onore del suo personaggio. Chissà se in futuro il figlio prenderà in mano l'eredità del padre. Fatto sta che gli appassionati italiani possono contare su qualche altro romanzo già uscito negli Stati Uniti ma non ancora tradotto da noi. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo allo sport con il calcio. Stasera gare di ritorno in Europa League per le italiane. Alle 18.55 si gioca Ghent-Roma, alle 21 invece Inter-Ludogorets a porte chiuse. Ne parliamo più avanti con Carlo Genta nella seconda parte di Effetto Giorno, nella quale ospiteremo anche il ministro per le pari opportunità per commentare la notizia in arrivo dalla Scozia: assorbenti gratis per tutte le donne, ma solo in quel paese. 349-238-6666 per i vostri messaggi, a tra poco. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Coronavirus, i contagi in Italia salgono a 528, solo 282 sono però confermati all'Istituto Superiore di Sanità, 14 le vittime positive con patologie pregresse. Tra poco la testimonianza del professor Bruno del San Matteo di Pavia, che ha in cura il paziente 1 del coronavirus in Italia. Borse europee in calo, in rialzo quelle cinesi. Trump dice: valuteremo lo stop ai voli con l'Italia. Ministro Gualtieri, Radio 24, entro poche ore in arrivo il decreto con le misure a sostegno delle aziende. Caso Regeni, l'ex ambasciatore italiano al Cairo in audizione dice: l'Egitto non mi informò della morte di Giulio, elusivi fin da subito. Sport calcio, stasera gara di ritorno di Europa League, Ghent-Roma e in serata Inter-Ludogorets a porte chiuse. minuti, di nuovo buongiorno Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati. Continuiamo ad informarvi e ad aggiornarvi, ma in questo caso con una importante testimonianza sulle notizie che riguardano il coronavirus in Italia, ma dove si concentrano veramente le attenzioni di quella percentuale, bisogna dirlo, per una informazione equilibrata e corretta, una percentuale minoritaria di casi che necessitano il ricovero all'ospedale. Ecco noi il professor Raffaele Bruno, direttore del reparto di malattie infettive al San Matteo di Pavia. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, lei è uno dei medici in prima linea in queste ore per quanto riguarda i casi gravi, i casi che poi meritano il ricovero da coronavirus. State lavorando lei personalmente da molte ore di fila. Come va, le chiedo, come siete organizzati al San Matteo, che è uno degli ospedali dove in queste ore si concentra il maggior lavoro? Ma guardi, sì, stiamo lavorando tanto, c'è tanto lavoro, però per fortuna siamo organizzati e riusciamo a fare, come dire, come si dice, a tener botta a questa emergenza. Senta, si è parlato anche di quali sono i farmaci, efficaci, perché uno dei problemi del coronavirus è che, pur non essendo un virus particolarmente grave, però essendo un virus sconosciuto, non c'erano medicine già sperimentate ed efficaci. Adesso con quali medicine state trattando? Ma guardi, come lei ha ben detto all'inizio, in questo momento noi arrivano i pazienti sintomatici e la sintomatologia con cui si presentano di fatto è una dispnea, cioè i pazienti fanno fatica a respirare. Quindi, a parte tutta la terapia di supporto, come lei ha ben detto, non c'è un farmaco specifico contro questa malattia. Allora, facendo tesoro di quelle che sono state le esperienze fatte in altri posti del mondo, stiamo usando dei farmaci che sono stati sperimentati e usati con alterne fortune dai colleghi cinesi e dai colleghi sudcoreani, riassumando farmaci un pochino vecchi, tra cui un vecchio farmaco per l'HIV, ormai desueto, che si è dimostrato però efficace in questo caso, e un vecchio farmaco per l'influenza e per l'epatite C, che anche in questo, come dicevo, in questo caso si è dimostrato efficace. Quindi questo cocktail di farmaci unicamente ovviamente ha degli antibiotici che servono per prevenire le infezioni, eventuali infezioni batteriche in cui possono incorrere questi pazienti. Senta, professor Bruno, un'altra cosa che è stata detta è che effettivamente il virus nei casi più gravi in cui merita il ricovero, nei casi in cui invece l'esito è veramente molto grave, spesso si parla di persone molto anziane con già delle altre patologie pregresse. Nei casi che state trattando voi, diciamo persone che non presentano questa casistica, cioè che non hanno età, sono degli ultra ottantenni e non hanno altre patologie, ci può dire se ci sono delle persone che sono invece in gravi condizioni nonostante non abbiano queste due condizioni? Guardi, io non posso entrare nello specifico dei pazienti, però abbiamo dei pazienti con queste caratteristiche. Il tristemente paziente numero uno, riportato dal giornale prima che io, insomma, ne facessi cenno, è uno di questi, insomma, nel senso che è un giovane senza alcun fattore di rischio, che però è andato incontro, insomma, una malattia severa. Detto questo, la medicina è fatta di statistiche, abbiamo detto che nell'80% dei casi, però in quel picco, in quella percentuale dei casi, possono ricadere ovviamente dei pazienti che, seppur giovani, evidentemente per un motivo ancora non sconosciuto, sono maggiormente proni a sviluppare. Ecco, è quello che si chiedono tutti. So che naturalmente per questioni di privacy lei non può parlare delle condizioni del paziente 1, che lei direttamente ha curato, quello che veniva da Codogno, una persona anche relativamente giovane, ma stava dicendo, non c'è ancora una spiegazione del perché in pochissimi casi persone anche in buone condizioni di salute possano aggravarsi, diciamo così, ma ci può dire, allargando un po' il quadro, se si tratta di un caso quasi unico o se ce ne sono anche degli altri? È un caso, insomma, torno a dire, la percentuale è molto bassa. Questo tutti gli anni lo osserviamo anche con l'influenza. Anche con l'influenza non possiamo avere delle, la maggior parte dei pazienti che hanno poi una malattia severa sono i pazienti over 70, over 80, però anche durante il picco influenzale c'erano casi severi di persone giovani, insomma. Senta, professor Bruno, prima di salutarla, c'è stata anche qualche polemica sul funzionamento di alcuni ospedali, sul fatto se si era pronti o se non si era pronti. Naturalmente non voglio, diciamo, gravare su di lei questa polemica, lei è in prima linea, quindi ha altro da fare che non polemizzare. C'è una richiesta, un qualche cosa che, diciamo, lei, anche come direttore del reparto di malattie infettive a San Matteo di Pavia, vuol fare? L'avrà fatta naturalmente all'autorità competente, o un messaggio che vuol dare a chi ci sta ascoltando? Guardi, voglio dare un duplice messaggio. Un messaggio alla cittadinanza e a tutti coloro che ci ascoltano di stare veramente tranquilli. Cioè, nel senso che veramente c'è un'agitazione, secondo me, veramente immotivata. Siamo di fronte sicuramente a un'emergenza, tuttavia è tutto sotto controllo. Purtroppo questa è un'emergenza che capita nel periodo dei social. La prima grande emergenza in epoca social, e questo ovviamente amplifica il tutto. E per quanto riguarda invece le istituzioni, devo dire, stanno operando bene. Non è il momento di litigare, è il momento di lavorare, è il momento di affrontare questa emergenza. Io non ravvedo nessun tipo di errore. Io sto parlando, io sono tecnico, certo, da un punto di vista tecnico. Sto parlando, secondo me non è il momento della lite, è il momento dell'unità, dobbiamo stare tutti compatti insieme, siamo una grande nazione, in particolare io parlo per la Regione Lombardia, una grande regione. Che ci ha messo a disposizione tutti gli ausili per operare al meglio e curare al meglio queste persone. Quindi siamo supportati in tutto e per tutto. Speriamo che il suo appello venga accolto anche da chi qualche polemica l'ha fatta nelle ultime ore. Grazie al professor Raffaele Bruno del San Matteo di Pavia. Grazie, buona giornata e buon lavoro soprattutto. Grazie. Grazie, grazie a voi, grazie a voi, arrivederci. Alle 13:22 minuti, cari ascoltatori, apriamo un'altra pagina dedicata alle elezioni suppletive a Roma. Ci sono state poco tempo fa a Napoli le elezioni suppletive, alle quali hanno partecipato pochissime persone, a dire la verità. Scarsa attenzione attorno a questo a Napoli, vedremo come andrà. A Roma si parla di un possibile slittamento, si vota per sostituire Paolo Gentiloni, diventato commissario europeo. Se ne occupa Daniele Biacchessi. L'emergenza nazionale per il coronavirus mette in secondo piano le elezioni suppletive del 1 marzo previste a Roma, che seguono quelle tenute lo scorso 23 febbraio a Napoli, vinte da Sandro Ruotolo per il centro-sinistra. Il voto coinvolge 150.000 elettori, dovranno scegliere il sostituto di Paolo Gentiloni, che ha lasciato vacante il seggio della circoscrizione Roma Centro alla Camera dei Deputati dopo la sua nomina a commissario europeo. Già a Napoli Ruotolo vinse sugli altri candidati grazie al sostegno di solo il 10% del corpo elettorale. E anche a Roma l'astensionismo dovrebbe giocare un ruolo fondamentale. Comunque i candidati sono in campo da mesi. Roberto Gualtieri, oggi ministro dell'economia, sostenuto da PD, Sinistra Italiana, MDP Articolo 1, Italia Viva, PSI, Demos, Europa Verde. Il centrodestra schiera Maurizio Leo, ex deputato di AN, vicino a Giorgia Meloni, su cui hanno trovato un accordo Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Rossella Rendina è la candidata del Movimento 5 Stelle. Potere al Popolo sceglie Elisabetta Canitano, mentre sempre a sinistra c'è il segretario del Partito Comunista Marco Rizzo. Alla competizione sono presenti anche il Popolo della Famiglia di Mario Adinolfi e il Movimento Europeo Volte di Luca Lomuzio. Si tratta però di un test indicativo su scala nazionale e locale. La tenuta della maggioranza che sostiene il Conte bis, soprattutto quello della giunta romana guidata dalla sindaca Virginia Raggi del 5 Stelle. È con noi, l'avevamo annunciato poco fa, la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti. Grazie, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, per commentare la notizia che arriva dalla Scozia, dove due giorni fa, non ce ne siamo quasi accorti di questa notizia, e ce lo ricordano invece alcuni giornali di oggi che dedicano ampio spazio, la parlamentare Monica Lannon è riuscita a trovare i voti in Parlamento per far approvare una legge che prevede la gratuità per tutte le donne scozzesi del costo degli assorbenti. Quindi assorbenti gratis per tutte le donne. Una decisione, ministro, apripista, credo che sia il primo paese al mondo a fare una cosa del genere. In Italia si era parlato di abbassare il carico fiscale. Come saluta questa decisione? Ma innanzitutto saluto positivamente il fatto che si stia affermando sempre maggiormente, sia a livello internazionale ma in realtà anche nel nostro paese, la necessità per le donne di essere messe nelle condizioni di poter vivere la propria femminilità come un valore diciamo riconosciuto e riconoscibile. E certamente il tema degli assorbenti, che di fatto interessa tutto il mondo femminile, è un tema che non deve essere più taciuto come un fatto personale e privato delle donne. Questo pensando anche a quanto oggi le donne siano già come dire, soggetti più discriminati dal mondo del lavoro, dal mondo delle istituzioni, ovviamente riconoscere una gratuità come è stato fatto nella Scozia. Noi siamo riusciti a farlo e io ho guardato con grande favore questa iniziativa che a livello parlamentare si è riusciti a portare avanti, cioè dell'abbassamento dell'IVA al 5% per i prodotti igienici femminili di diciamo di natura biodegradabile o le coppette. Ecco, sono tutte misure che vanno a sostenere finanziariamente le donne e permettono alle donne di vivere la loro femminilità non come un costo, una penalizzazione personale, ma come diciamo un modo di naturale di vivere la propria identità anche da un punto di vista sessuale in una relazione positiva con tutto il resto della società. Senta, Ministra Bonetti, mi permetta di essere, non dico insomma pessimista, ma di rilanciarle la domanda, perché in Italia si è appunto faticato ad abbassare l'IVA sul costo degli assorbenti, portando al 5%, ma solo su quelli compostabili, biodegradabili. È arrivato il momento, dal suo punto di vista, di riaprire questa battaglia, che secondo quello che sostiene la parlamentare scozzese Monica Lennon si tratta proprio di un vero segno tangibile di un, come dire, di una dimostrazione di pari opportunità reali per le donne. Certamente, io avevo proposto nella mia diciamo intenzione l'estensione della riduzione dell'IVA al 5% per tutti i prodotti igienico-sanitari femminili, quindi tutti gli assorbenti. Confesso che non siamo riusciti a farlo per una questione anche di risorse disponibili. D'altra parte, ben venga che non abbiamo aumentato l'IVA per tutti i prodotti, compresi gli assorbenti, perché voi sapete, sappiamo bene tutti, che questa legge di bilancio è una legge di bilancio che ha avuto come uno dei primi obiettivi il calmierare l'IVA per tutti i prodotti, compresi gli assorbenti. Siamo riusciti anche ad abbassarla per una parte di questi, lavoreremo in questa direzione nelle prossime misure, nei prossimi anni. In generale, guardi, quello che io sto facendo nell'ambito in particolare della proposta del Family Act che sto costruendo, ma più in generale nelle proposte che riguardano le pari opportunità, anche diciamo a colmare il divario di genere tra le donne e gli uomini come potenzialità e opportunità nel nostro paese, andrà proprio nell'ottica di riconoscere che ci sono delle spese che sono sostenute dalle persone, dalle piccole comunità, dalle famiglie, e che però sono spese che in qualche modo devono essere maggiormente riconosciute e sostenute dall'intera collettività e quindi almeno defiscalizzate o per esempio avere un'IVA abbassata. In sì. Quest'ottica certamente gli assorbenti sono una di questi, diciamo, di questi prodotti e di queste spese possibili. La ringrazio, Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità, grazie per essere stata con noi, buona giornata. Abbiamo commentato appunto questa notizia, ci sono già dei messaggi di alcuni ascoltatori, voglio la schiuma da barba gratis, dice un ascoltatore, comprensibile, anch'io la vorrei, però sinceramente dai, non si può scherzare, è giusto scherzarci, però non è proprio esattamente la stessa cosa. 13:29 minuti, facciamo un piccolo break, torniamo tra poco, 349-238-6666 per i vostri messaggi, ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, a tra poco. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Coronavirus, i contagi in Italia salgono a 528, solo 282 sono quelli confermati all'Istituto Superiore di Sanità, 14 le vittime positive e con patologie pregresse. I ministri Di Maio e Speranza dicono l'Italia è affidabile, colpiremo chi specula su gel e mascherine. Nel weekend la decisione sull'eventuale riapertura delle scuole. Borse europee in calo, in rialzo quelle cinesi. Il ministro Gualtieri a Radio 24, entro poche ore è in arrivo il decreto con le misure a sostegno delle aziende. Caso Regeni, l'ex ambasciatore italiano al Cairo in audizione dice: l'Egitto non mi informò subito della morte di Giulio, furono elusivi da subito. Sport, calcio, stasera gara di ritorno di Europa League. Gent Roma e poi in serata Inter Ludo Goretz. Minuti. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Ben ritrovati. I vostri messaggi al 349-238-6666 e sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Ce ne sono parecchi. Mi concentrerei sulla intervista che abbiamo fatto al professor Bruno del San Matteo di Pavia, che sta curando diversi casi, la minoranza di casi gravi di coronavirus. Intanto un ascoltatore dice: come mai non ci sono notizie sulle condizioni del paziente 1? E questo però è una domanda che è stata fatta prima dell'intervista al professor Bruno, il quale, pur nel rispetto della privacy, ci ha detto semplicemente che il paziente 1, quello di Codogno, il 38enne di Codogno ricoverato la settimana scorsa, è ancora ricoverato. Poi invece c'è chi in qualche modo contesta l'impostazione che abbiamo dato oggi, ma anche nei giorni scorsi. Adesso, dice questo ascoltatore, vi hanno dato l'ordine di dire che si guarisce da soli. Troppo tardi, le nostre industrie del nord, scrive questo ascoltatore, sono già in fallimento, i prodotti non li vuole più nessuno, eccetera eccetera, perché ci avete detto che c'è il virus. Vergogna. No, allora, non abbiamo detto noi che c'è il virus, lo hanno detto le autorità, noi lo abbiamo riportato. Devo dire che Radio 24 mi sembra che fin da subito non ha usato toni allarmistici. Sicuramente abbiamo dedicato tanto spazio, forse troppo, a questo argomento, forse ancora troppo, meglio troppo che troppo poco, dico io. Sicuramente non in toni allarmistici, sicuramente per quanto ci riguarda, però anche, voglio dire, consentiteci di correggerci. Se adesso stiamo dicendo con più attenzione, attenzione al fatto che si guarisce nell'80% dei casi e che i casi gravi sono davvero molto pochi, io credo che sia un fatto da salutare positivamente, il fatto che anche chi fa l'informazione di mestiere capisca che bisogna cambiare un po' rotta, no? Cambiare ogni tanto per migliorarsi mi sembra una cosa positiva, quindi non vedo perché ve ne dobbiate lamentare, almeno questo ascoltatore. Per gli altri invece, come se non avessi detto nulla. È il momento del punto del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. Il punto di Alberto Orioli. Una normalità vigile, responsabile, razionale, l'abbiamo detto, è l'antidoto migliore all'epidemia di coronavirus e forse vale la pena di ripeterlo. È irrazionale una quarantena collettiva che porti ad azzerare i passeggeri dei treni o degli autobus, che inneschi la corsa all'accaparramento alimentare, che svuoti i ristoranti o i bar e induca ad annullare intere stagioni di vacanze. Il sistema fieristico è in ginocchio, vale 60 miliardi l'anno. La moda, che vale 71 miliardi solo di export, ha annunciato di aver perso l'intera stagione del 2020. Il turismo è congelato fino a giugno e pesa per 150 miliardi sul PIL italiano. Il sistema della cultura sta subendo pesanti contraccolpi. Le filiere della meccanica vedono a rischio oltre 6.000 posti di lavoro. Perfino il settore dei parchi a tema, in cui l'Italia è un'eccellenza, vede a rischio 15.000 assunzioni. Anche la logistica presente nelle aree vicino alla zona rossa, con uno dei gangli vitali dell'intero sistema italiano e con oltre 460 aziende, è in crisi. Pesano gli aumenti di assenze per malattie e non, e questo condiziona l'intera rete lombarda, la più importante con 1.500 imprese e un fatturato di 20 miliardi l'anno. Questo elenco è più che sufficiente per ribadire che tra le tante risposte che servono verso un virus ancora sconosciuto, una sola è inutile e dannosa: la paura. È con noi il teologo e filosofo Vito Mancuso. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Grazie per essere con noi, Mancuso. Noi l'abbiamo convocata per questo, perché per cercare di inquadrare alcune notizie, di capire che cosa sta passando un po' nella testa degli italiani. Stamattina abbiamo letto il titolo di una intervista di Repubblica al cardinale arcivescovo emerito di Milano Scola, il cui titolo è "Non esiste il castigo divino, Milano ce la farà", e parlava naturalmente del coronavirus. Poi leggiamo che nella classifica di vendite dei libri, libri come La peste di Camus sono passati dalla 71esima al terzo posto in classifica, e così tutta un'altra serie di indizi. Ci ha riflettuto anche lei prima di arrivare poi al punto di dottrina, no? Perché il direttore di Radio Maria invece ha parlato proprio di castigo divino, eccetera. Che cosa stiamo passando psicologicamente, emotivamente, e anche per chi ha una sensibilità spirituale e religiosa in questi giorni, Mancuso? Ma guardi, sono due ordini di discorsi diversi. Il primo riguarda la psicologia umana, il fatto che noi siamo esposti al sentimento, direi meglio all'emozione, perché più che un sentimento all'emozione della paura, che è un'emozione negativa che la mente genera in presenza di pericolo e che peraltro ha anche, voglio dire, un certo tipo di fascino quando non sei toccato in prima persona, quando la paura non diventa terrore. Così si spiegano i thriller, così si spiega l'horror, così si spiegano le favole per bambini che hanno le streghe, gli stregoni, l'orco e così via. Tutto la paura serve per quando... esorcizzare in qualche modo. Ma per esorcizzare anche per sentire un sapore, una sottile lama di sapore diverso rispetto all'ordinarietà, rispetto al quale noi umani siamo interessati, ecco, nella misura in cui non veniamo toccati da vicinissimo in prima persona, quando la paura diventa panico, diventa terrore, allora non c'è più nessun fascino. E quindi anche per questo si spiega il fatto che la gente vada a leggere La peste di Camus oppure altre cose. Saramago, citazioni del Decameron, di Manzoni, La peste manzoniana, eccetera. Sì, lo diceva già Lucrezio nel De rerum natura, che quando si vede una tempesta, stando però naturalmente sulla riva, quando si può assistere, tutto questo genera un certo sapore agrodolce che fa piacere a molti palati. Poi c'è la questione teologica, guardi, ci sono due tendenze da sempre nel cristianesimo, nei credenti. La prima è quella che crede in Dio, di chi crede in Dio a dispetto del mondo, persino odiando il mondo, condannandolo, volendo il fuoco, il castigo, la fine di questo mondo. È una presenza da sempre accompagna la storia del cristianesimo e di cui il direttore di Radio Maria è un esponente contemporaneo. Ecco, scusi, prima di parlare della seconda tesi, perché cosa ha detto il direttore di Radio Maria? Ha parlato proprio chiaramente, per chi se lo fosse perso, per chi non l'avesse sentito, della coronavirus come, insomma, di una peste divina, di un castigo per i cristiani, per i loro comportamenti sbagliati, eccetera eccetera. Tanto che, perché ne parliamo? Perché oggi il cardinale Scola, arcivescovo emerito di Milano, in una intervista invece smentisce completamente questa tesi. Ha sentito il dovere di intervenire perché evidentemente è un qualche cosa che serpeggia forse anche tra le anime dei fedeli. Mancuso, l'ho interrotta, stava esponendo, certo, appunto. Serpeggia perché è una tradizione antica. Nella Bibbia ci sono non poche pagine che parlano della peste, della carestia, della fame, delle bestie feroci, eccetera, come mandate da Dio. Quindi il direttore di Radio Maria, certo, non è un illustre intellettuale, non è un filosofo, un teologo e così via, però non è neanche il primo sprovveduto probabilmente, e altri al suo posto nel passato, un cardinale, ricordo, un vescovo, parlavano dell'AIDS come un castigo, qualcun altro parlato, io ricordo New Orleans, quando una catastrofe sommerse la città, è un vescovo austriaco che disse, ecco appunto, è il castigo di Dio. Quindi, e se queste persone fanno così, ragionano così, è perché ci sono appigli nella tradizione e persino nella Sacra Scrittura. Poi certo c'è l'altra tendenza di cui stavo accennando, che è il contrario, cioè se si crede in Dio non è a dispetto del mondo, in odio al mondo, ma al contrario per dare senso, compimento a questo nostro mondo, a questa nostra vita affamata è assetata di giustizia, di senso, di razionalità, di amore, che spesso invece si trova sconfitta proprio nella ricerca della giustizia, della razionalità, del senso, della benevolenza e così. E allora da Platone in poi, dico Platone per dire che non è qualcosa che riguarda solo il cristianesimo, ma diciamo così è una tendenza generale dell'anima, si cerca un iperuranio, si cerca un mondo delle idee, si cerca un regno dei fini, diceva Kant, che dia senso a questo nostro sentimento per non pensare che sia insensato coltivare la sete di giustizia e di sensatezza e di amore e di bene, eccetera. Quindi sono queste due tendenze. Assolutamente. Noi abbiamo così voluto, le abbiamo chiesto di essere con noi, Mancuso, per aiutarci a usare parole come ha fatto adesso, per illuminare queste due tendenze, per capire che cosa sta succedendo nella Chiesa, tra i fedeli, ma anche tra le comuni persone. Perché quando leggiamo appunto di un'intervista di un cardinale importante come Scola, che sente il bisogno di intervenire su questo, ci sembrava il caso di commentarlo. Grazie, Mancuso, per essere stato con noi. Buona giornata. Noi andiamo invece velocemente verso tutto il resto. Carlo Genta, parliamo di cose lietissime forse. Stasera si gioca, due belle partite. Sì, si gioca l'Inter con l'Udinese, sappiamo, ben nota partita a porte chiuse, si parla di Europa League, Inter che ha vinto la gara di andata. Non mi aspetto mirabili o indicazioni importanti su questa partita, ma siamo anche in attesa di capire se questo è ben più importante, se l'Inter giocherà a porte aperte oppure no a Torino contro la Juventus, perché è una decisione che deve ancora essere presa. Il provvedimento di chiusura dello stadio arriva fino a sabato, la partita domenica sera, quindi ancora non c'è una decisione. C'è tanta incertezza, va detto, su questo evento, su tanti altri eventi. Così com'è, usiamo la parola incertezza per non essere, per non infierire. Vabbè. No, è incertezza, confusione, non so quella che vuoi, incertezza anche sul passaggio del turno della Juventus dopo che ha perso 1-0 ieri sera a Lione. Questo immagino che sarà tema soprattutto di discussione con gli ascoltatori per tutti convocati. Grazie Carlo, ti ritroviamo più tardi, noi facciamo un piccolo break, torniamo subito.